Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Eccoci qui, buongiorno, benvenuti. Com'è andata con il sole? Beh, dato che bacia i belli, immagino che vi abbia strapazzato di baci. Ma adesso, cari amici, che come spesso succede la passione si è un po' affievolita, facciamo due conti. Bilancio positivo o negativo? Allora, 800 24 00 24, questo è il nostro numero verde già a vostra disposizione, direi lo strumento più facile e immediato che avete a disposizione per occuparvi ogni giorno dalle 11 alle 12 della vostra salute e del vostro benessere. Chiamate, raccontate, chiedete, confrontatevi e fatevi guidare dall'esperienza dei nostri specialisti. Oggi in studio con me è tornata a trovarci la dottoressa Riccarda Serri, dermatologa e presidente di Skineco, l'associazione di dermatologia ecologica. Dottoressa Serri, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Dottoressa, lei ci aiuterà dandoci consigli e indicazioni sui trattamenti, sui prodotti da utilizzare per mantenere a lungo sulla nostra pelle il colore delle vacanze o a eliminarlo dolcemente per evitare l'effetto chiazza. Si dice chiazza sempre, no? Chiazza di leopardo, si potrebbe dire anche macchia di giraffa. Comunque, preparandoci ad affrontare la nuova stagione. Quali saranno i punti forti del suo intervento? Rapidamente, così intanto noi ci facciamo un po' stuzzicare. La pelle, innanzitutto, non aggredire la pelle, blandirla, addolcirla, calmarla, favorirne il rinnovamento senza insulti. Quindi come curare la pelle, con che prodotti, che tipo di peeling fare. Poi è molto importante anche il tipo di alimentazione, come mangiare, perché i benefici non sono solo del colore della pelle, ma anche della luminosità, la consistenza. Noi dobbiamo aiutare anche la pelle, certo, in tutto. E poi i benefici mentali, perché noi sappiamo che la mente influisce sulla bellezza della pelle, per cui dobbiamo cercare di mantenere al massimo il benessere interiore che ci hanno dato le vacanze, se ci hanno dato benessere, o superare l'eventuale malessere se le vacanze non sono state proprio eccellenti. Capita anche così. Ma insieme a noi abbiamo il professor Mauro Barbareschi, che è professore aggregato al Dipartimento di Scienze Dermatologiche all'Università di Milano, Fondazione Policlinico Ospedale Maggiore. Professore, eccoci. Buongiorno. Buongiorno. Professore, noi sappiamo che il sole funziona su alcuni tipi di pelle come terapia, perché molte patologie cutanee migliorano. Però in altri casi può essere considerato come un fattore di rischio. Penso ad esempio a chi al ritorno delle vacanze deve fare i conti con una ricomparsa dell'acne, con eczemi. Insomma, lei, professor Barbareschi, affideremo i casi delicati. E anche lei può iniziare ad anticiparci quelli che saranno i suoi messaggi chiave. Ben volentieri. Un saluto a lei, a Riccardo Serri. Ciao Mauro. Ciao a tutti i radioascoltatori. Io farò un pochino la parte del diavolo, perché farò anche qualche riferimento a disturbi che vengono dermatologici, naturalmente, peggiorati dal sole. Lei ha citato l'acne, però ci sono anche le infezioni, che possono essere più facili a venire quando ci si espone al sole, oppure ricordiamo i nostri nevi, le macchie sulla pelle, il melasma in particolare, i capelli che possono subire dei danni. Insomma, quindi io farò un pochettino quello che sveglierà l'attenzione. Ma parleremo anche di dieta. Ci sono alimenti che hanno aiutato la nostra pelle a prepararsi al sole, ne abbiamo parlato tante volte nelle puntate che precedevano l'estate, alimenti che possono anche aiutarla a mantenere quindi gli effetti positivi del sole, ma anche direi a rimediare i piccoli stress che i raggi solari hanno prodotto. Quindi se volete saperne di più, non perdetevi l'intervento della dottoressa Pucci Romano, dermatologa, vicepresidente Skineco, che abbiamo già in linea con noi per qualche anticipazione. Dottoressa Romano, buongiorno. Buongiorno, mi sento tanto la cuoca della situazione io. Saluti a tutti, ciao Riccardo. Ciao Pucci, che cuoca, tu sei uno chef sopraffino, sei lo chef dei dermatologi e non solo. Su quali alimenti punteremo, dottoressa Romano? Proprio perché abbiamo subito uno stress ossidativo piacevolissimo e utilissimo, andremo a contrastarlo insieme ai presidi per migliorare l'assetto cutaneo. Miglioreremo anche da dentro con una serie di alimenti che ci aiuteranno non solo a mantenere l'abbronzatura, ma a ottimizzare i benefici che abbiamo ottenuto. Naturalmente tutti i prodotti alimenti di stagione, perché la natura è ricca, ci mette sempre a disposizione quello che abbiamo bisogno per quel periodo dell'anno. Esatto, e aggiungiamoci anche si dice oggi a chilometro zero, cioè che siano stati coltivati e colti il più vicino possibile a dove si mangiano, perché questo significa che sono ancora più ecologici, freschi e non hanno inquinato con mezzi di trasporto vari, ovvero i prodotti che arrivano in nave da lontano non vanno tanto bene. Lì. Dottoressa Romano, allora noi ci sentiremo nel corso della trasmissione, intanto la saluto. Grazie, a dopo. Noi abbiamo pensato anche all'angolo beauty. Quali sono i prodotti che possono dare luce ad una pelle che sta perdendo il colorito ambrato dell'estate? Meglio fard, terre, creme colorate. A sciogliere i dubbi ti aiuterà Dino Del Corso, curatore d'immagine. Buongiorno Dino, benvenuto. Buongiorno a tutti. Allora, che cosa ci racconterà? Ci aiuterà almeno a noi donne ad utilizzare il prodotto, il trucco che fa al caso nostro? Assolutamente sì, visto che l'estate sta finendo, ma vogliamo avere ancora un aspetto rilassato come quando siamo in vacanza, sveleremo quelli che sono i trucchi su come scegliere i prodotti idonei alla pelle, su come applicarli. Intanto io posso fare una domanda un po' per stimolare: creme colorate o polveri? Ecco, questa è la domanda di Dino Del Corso, ma noi lo incontreremo di nuovo nel corso della trasmissione. Voi creme colorate o polveri? Mi rivolgo alle amiche di Essere Benessere. Grazie Dino Del Corso, ci sentiamo dopo. Grazie, a dopo. Quindi cari amici, una puntata ricca con in più anche una novità, perché Essere Benessere è sbarcato anche su Facebook, quindi uno spazio, questo che vuole diventare, ci aiuterete voi, proprio una sorta di prosecuzione della puntata radiofonica. Contattateci anche attraverso il social network, fateci le vostre domande, dateci il vostro parere, chiedeteci, stimolateci anche voi, io ci conto molto. Bene, quindi il viaggio cominci, si dice sempre così, ma ecco a voi alcune domande chiave che possono orientarvi per chiamare il nostro numero verde, che è 800 24 00 24. La tua abbronzatura è uniforme o noti delle macchioline più chiare color caffè latte? La pelle del viso ti appare compatta o sono invece comparse pustoline sotto la pelle e pori dilatati? Il sole ti ha lasciato macchie scure, più pigmentate? Per caso è nato un nuovo neo? Sempre per caso hai notato se qualcuno di quelli già esistenti ha cambiato colore o forma? Hai avuto durante le vacanze eritemi o arrossamenti e infiammazioni superficiali della cute? Osserva i piedi. Tra le dita ci sono pustoline? Dottoressa Serri, allora iniziamo a guardare la nostra abbronzatura. Io inizio a guardare anche un po' la mia. Sta perdendo un po' smalto ed è facile che in alcune zone la pelle sia particolarmente secca, si squami. Ad esempio, un classico sono le gambe, almeno per me. Lei mi dirà, beh, è normale perché c'è il ciclo della pelle, papi, vabbè, però noi stavamo meglio prima, quando era bella, sì, lucida e bella compatta. Che si fa? Non succede a tutti, perché oggi molti, e soprattutto molte ragazze, proprio non prendono sole, per cui rimangono color latte. La perdita progressiva dell'abbronzatura, sì, siccome avviene grazie a una desquamazione degli strati più superficiali, lascia la pelle un po' a chiazze, come dicevi prima, a chiazza di leopardo, di giraffa, di giaguaro. E poi proprio si solleva e abbiamo anche una pelle che si squama. Una pelle che si squama e una pelle che prude, perché è una caratteristica nei giorni del rientro dopo l'esposizione solare. La pelle pizzica e tutti dicono: mi pizzica qualsiasi cosa metta. Bene, bisogna lavarsi delicatamente con creme detergenti, oli detergenti, oppure mettere addirittura un olio prima della detersione. Non bisogna sfregare troppo col guanto di crine, come fanno molte persone, perché potrebbe essere un'irritazione eccessiva, ma passare sulla pelle una lozione piuttosto delicata a base di alfa idrossiacidi, per esempio acido glicolico, lattico, mandelico, piruvico, insomma una lozione che poi può essere lasciata su se è piuttosto a concentrazione bassa, oppure può essere tolta dopo un paio di minuti. Noi la possiamo passare con un batuffolo di cotone sul corpo, lasciarla un paio di minuti se è a una concentrazione tipo del 15% e poi sciacquarla via. Dopodiché, dopo la detersione con crema, questa pratica di esfoliazione delicatissima con alfa idrossiacidi, si mettono creme idratanti, nutrienti a base di oli vegetali e burri vegetali, come jojoba, come mandorle, come burro di karité, con ingredienti aggiuntivi che siano restitutivi come la vitamina B5, la vitamina E o tocoferolo, l'acido ialuronico, tante altre vitamine. Occorrono ingredienti lenitivi, restitutivi, idratanti che calmino anche il prurito. Esistono prodotti fatti così e per cortesia basse concentrazioni, meglio niente, ma meglio piuttosto se non le trovate con niente, meglio basse, di petrolati, quindi di derivati del petrolio come gli oli minerali, paraffinum liquidum, petrolatum, e che siano bassi negli inci, i nomi astrusi che finiscono in one, ciclometicone, dimeticone, perché sono i siliconi che vanno benissimo quando sono presenti in piccola quantità per la scorrevolezza, sì, ma in realtà poiché non idratano di per sé, semplicemente danno un effetto levigante e occlusivo, sulla lunga distanza possono addirittura seccare la pelle. Quindi attenti all'one. Attenti all'one. L'one deve essere in fondo e non all'inizio della formulazione inci. Allora, professor Barbareschi, lei ha detto farò un po' la parte del diavolo. Sappiamo che però ad alcune pelli il sole avrà fatto sicuramente bene. Possiamo fare una sorta di meteopelle? Chi migliorerà, chi peggiorerà, chi tornerà indietro? Sì, si può tentare e direi che possiamo partire con chi tende a avere benefici, e quindi persone che soffrono di eczema, ad esempio al sole riescono a trovare un pochino di benessere, la dermatite seborroica, che è una dermatite tipica della zona centrale del volto, molto inestetica, che si rende più evidente durante l'inverno. La psoriasi, malattia genetica con le sedi classiche, tanto può incidere sugli aspetti psicologici dei pazienti. E poi ancora ci possono essere dei miglioramenti anche per patologie un po' più di nicchia, come la vitiligine, che una volta si diceva di non esporre assolutamente al sole e che invece adesso le nuove ricerche fanno pensare che possa anche essere addirittura stimolata, ovviamente con delle dosi opportune dal sole. Però devo dire che sinceramente la sensazione è che qualche cosa invece peggiori. E allora abbiamo citato l'acne, va detto, perché spesso e volentieri su questo ci sono un po' di idee poco chiare, un po' di confusione, possono peggiorare le infezioni se sono già presenti, come dicevo prima. C'è tutto il capitolo delle fotodermatiti, cioè di quei disturbi che vengono generati da raggi ultravioletti, non so, l'eritema solare e via di questo passo. E poi ancora i nei, che possono subire delle trasformazioni, specie dopo le scottature, il melasma, che sono quelle macchie che vengono soprattutto nel sesso femminile a livello delle guance, delle labbra, che sono così inestetiche. C'è tutto il capitolo dell'invecchiamento cutaneo, che purtroppo è una conseguenza dell'esposizione al sole, e poi, come dicevo all'inizio, in apertura, anche i nostri capelli possono subire dei danni, per cui se dovessimo fare una pesata di ciò che è migliore e ciò che è peggiora, dovremmo, ecco, un momentino soffermare la nostra attenzione, pensare bene a quanto almeno sole prendere. Non dico di non prenderlo, ma a quanto prenderne. 800 24 00 24. Abbiamo Giovanni, ci chiama da Frosinone. Buongiorno Giovanni, benvenuto. Sì, buongiorno, buongiorno al professore. Volevo chiedere al professore, siccome me, in principal modo l'estate, che ho un'esposizione maggiore delle braccia al sole, all'interno, diciamo mettendo il palmo verso terra, sotto le braccia mi vengono delle macchioline alla pelle tutto rosa, in principal modo dal gomito, sulla parte del gomito. Professor Barbareschi, cinose queste macchie? Prudono? No, non mi danno fastidio, sono solo un po' bruttine, con rosea. Color rosa, e scompaiono poi quando smette di esporsi? Sì, come passa l'estate mi vanno via. Allora purtroppo lei probabilmente rientra in quei casi, diciamo generalmente descrivibili come fotodermatiti, e dove si formano queste diciamo lesioni che assomigliano un po' all'orticaria, possono prudere più, possono prudere meno, e che in effetti sono proprio legate all'energia che i raggi ultravioletti trasferiscono alla nostra cute. E quindi in quel caso bisogna anche tener conto di usare dei filtri, di tenersi coperti in certi orari, specie quelli centrali della giornata. Dottoressa Serri. Sì, io non riferita al caso del nostro ascoltatore, però ci tengo a dire che molto spesso noi diamo la colpa alla nostra pelle di qualcosa che succede. In realtà, non, per esempio, l'acne che peggiora. L'acne peggiora al sole spessissimo anche per i solari che si usano, non solo per il sole. Purtroppo i solari possono causare dei problemi, quindi vanno scelti con molta attenzione. A tutt'oggi il solare perfetto non esiste, per cui bisogna anche sempre considerare che magari non è colpa né del sole né della nostra pelle, se non il fatto che la pelle è particolarmente sensibile. La pelle è indubbiamente più sensibile quando c'è caldo umido, oltre che quando c'è l'insulto del sole, e per cui è più reattiva e si infiamma più facilmente. Questo nel caso dell'acne. Io vedo moltissime acne che peggiorano con l'applicazione di prodotti solari non adatti eccessivi. E questo è un po' il periodo. Siamo tornati dalle vacanze, abbiamo utilizzato magari un solare non adeguato al nostro tipo di pelle e ci troviamo, esatto, non solamente le ragazzine o i ragazzini, ma anche donne mature, mediamente giovani, che ritornano ad avere a che fare con brufoli, puntini neri. Comunque oggi c'è un po' la mania, e spero che passi questa mania, di mettere filtri solari ovunque, anche nei prodotti da giorno, nelle creme, nei trucchi. Io non sono d'accordo con questa tendenza. Perché? Perché comunque sono sostanze, non chiudono i pori, non è quello il punto, sono sostanze che non sempre sono stabili, che assorbendo la luce solare possono poi scatenare una produzione di radicali liberi. E noi siamo tornati insieme, oggi ci occupiamo della nostra pelle, il sole, l'esposizione solare può produrre anche delle macchie, ne parliamo oggi con la dottoressa Serri e il professor Barbareschi, parleremo naturalmente anche di acne, dei trattamenti in genere da dedicare, da fare alla nostra pelle al rientro per prepararla anche all'inverno. Dicevamo il sole macchia, però dottoressa Serri, a mano che la tintarella perde brillantezza, le macchie potrebbero risultare meno evidenti, anche sarà più facile coprirle con il trucco, però non se ne andranno da sole, perché il colorito della pelle torni ad essere omogeneo e suggeribile, è consigliato un trattamento che a seconda del tipo della pelle e della situazione riporti la pelle allo stesso colore. Si parla di creme, si parla di peeling, si parla di laser. Allora, dato che queste macchie più scure della pelle sono un problema che interessa, è vero, in modo particolare le donne, ma non risparmia neanche gli uomini, io farei con voi un po' una panoramica dei trattamenti che oggi sono a disposizione, sottolineandone i vantaggi ma anche i limiti, in modo che uno possa essere più sereno nella scelta. Inizierei dalle creme, dottoressa Serri. Si parla di queste creme schiarenti che dovrebbero togliere questa schiarire questa... Sì, però c'è macchia e macchia, per cui ci sono delle macchie che vengono, sono più o meno temporanee, e poi tendono a risolversi quasi autonomamente quando va via l'abbronzatura, ma alcune macchie tipo melasma, cloasma, poi invece purtroppo rimangono. Certo, si attenuano quando non va via l'abbronzatura, ma rimangono. Quelle macchie tipo melasma o cloasma gravidico non vanno insultate, bisogna appunto usare creme schiarenti, ce n'è numerosi tipi, sia farmacologiche, quindi da prescriversi da parte del dermatologo, magari anche fatte galenicamente in farmacia, oppure di già pronte, più cosmetiche, o per dire un pochino più che cosmetiche, chiamiamole cosmeceutiche, e ce n'è di diversi tipi. In genere vanno messe alla sera, sì, e di giorno va messa una crema lenitiva antiradicalica e poi un fattore di protezione solare alto, perché non bisogna fare in modo che il raggio solare UVA, perché sono soprattutto gli UVA, i raggi lunghi, a determinare le macchie, incontri la pelle. Quindi occorre veramente proteggersi. E quindi se si usano queste creme, si pensa di fare un ultimo fine settimana, un weekend al mare, lì bisogna proteggersi, ecco. Mettersi un cappello. Io sono un edonista, per cui sono sempre per il weekend al mare. Non è che uno perché ha le macchie non deve fare il weekend al mare. Però deve usare dei prodotti non aggressivi. Mentre quello che non bisogna fare è aggredire queste macchie tipo melasma, con laser per esempio. Il laser va bene per le macchie tipo lentigo, quelle che si chiamano anche macchie, le chiamano tutti di fegato, le macchie che vengono sul dorso delle mani, sul viso e che sono, a differenza del melasma, asimmetriche, cioè non simmetriche da entrambi i lati del viso. Sono in genere presenti sulle zone esposte, quindi viso, décolleté, dorso delle mani e avambracci, e si chiamano anche purtroppo senili perché tendono a venire con l'età. 800 24 00 24. Andiamo a Reggio Emilia, c'è Margherita, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno. E io telefono perché ho una domanda abbastanza, per me molto spinosa, perché ho questo problema da qualche anno e credo sia riconducibile al fatto che assuma la pillola, perché ho delle macchie che mi compaiono sempre comunque durante l'esposizione, mai magari durante l'inverno, e sopra le labbra, e sembrano lentiggini, cioè le ho in tutto il viso le lentiggini quando mi abbronzo, perché io sono bianca, e, però proprio sopra le labbra sembra proprio un pigmento che è molto antiestetico. A me, Margherita, le lentiggini piacciono molto e non mi vengono mai. Comunque pazienza, sicuramente la dottoressa Serri le ha le lentiggini, siete bionde. Professor Barbareschi, sì. Può essere la pillola, ci chiede Margherita? Purtroppo sì, perché le pillole contengono gli estrogeni, e gli estrogeni sono degli ormoni che vanno ovunque e vanno anche sulle cellule della nostra cute e anche sui melanociti, che sono le cellule che producono il nostro pigmento principale, la melanina. E in effetti, per motivi genetici, è possibile che la stimolazione degli estrogeni induca i melanociti a lavorare, diciamo, troppo e a far produrre loro troppo pigmento. Poi la questione si complica un po', perché anche il riassorbimento del pigmento comporta tutta una serie di processi che, se non sono ben messi in sequenza, possono far sì che il pigmento poi rimanga come fosse quasi un tatuaggio. E quindi la nostra ascoltatrice purtroppo dovrà sempre un po' fare il conto con questo tipo di risposta. Sarà difficile disinnescarla completamente, mentre si potrà lavorare sulle sue macchie per schiarirle e per renderle meno visibili. Lei si riferisce alle creme o magari anche a un peeling? Quale trattamento in particolare in una zona così delicata come quella proprio sulle labbra si può fare? Buon senso direbbe di utilizzare un criterio a salire, quindi cominciare senz'altro con le creme schiarenti e le fotoprotezioni, quindi le creme solari, e poi provare magari con molta attenzione, senza voler strafare, anche vie un pochino più aggressive, tra virgolette, quindi peeling e i laser, proprio per non avere poi gli effetti paradossi, perché bisogna ricordare che tutte le volte che la nostra pelle viene infiammata, c'è il rischio che poi pigmenti, quindi fare dei trattamenti che infiammano la pelle potrebbe significare alla fine avere un effetto paradosso, quindi il pigmento che torna, quella che si chiama la pigmentazione post-infiammatoria, e questo sarebbe chiaramente un evento che contribuirebbe non poco a demoralizzare chi si avvicina a queste metodiche. Fabio da Bergamo, poi abbiamo Giovanni da Firenze e Alessandra da Roma. Bergamo allora. Fabio, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Io avevo una domanda relativa alla mia bambina che ha 2 anni, ha una zona molto chiara, bionda, che fin dai primi mesi, cioè da quando aveva 5-6 mesi, gli sono cresciute alcune macchie, una dietro il ginocchio ed una dietro il collo, che la pediatra ci ha detto essere dermatite atopica. Sì. Ci avevano prospettato che forse col mare quest'estate si sarebbero un po', diciamo, asciugate, e in realtà invece no, anzi poi la bambina suda molto e poi probabilmente anche con la sabbia siamo arrivati a un punto che quasi iniziava a uscire sangue. Allora abbiamo messo alcune creme anche a base di cortisone per, diciamo, calmare questa infiammazione. Le mie domande erano, uno, se questa, diciamo, infiammazione ancora maggiore all'esposizione del sole indica qualcosa di diverso rispetto alla diagnosi della pediatra? I due, e che cosa possiamo fare, perché la pediatra ci ha un po', diciamo, lasciato in rassegnazione, invece noi vorremmo, visto che vorremmo essere un po' guidati. E allora Fabio ha fatto bene, perché abbiamo la dottoressa Seri e il professor Barbareschi che rapidamente possono dare un'indicazione a Fabio. Naturalmente non è una diagnosi telefonica, ma un aiuto per muoversi con maggiore sicurezza e competenza. Dottoressa, lei che farebbe? Beh, io che farei? Innanzitutto rassegnarsi, no? Anche bisogna tenere presente che l'atopia si può benissimo tenere sotto controllo oggi, e iniziando anche a coccolare e a trattare bene la pelle della bimba. Quello che può essere successo è che il sole si fa bene alla dermatite atopica, ma il sole in clima secco, perché l'umidità, il sudore fa peggiorare la dermatite, per cui bisogna fare in modo di tenere sempre belli freschi, asciutti questi bimbi, e usare prodotti giusti sulla loro pelle, non occlusivi, non troppo carichi, indumenti giusti, indumenti, ci sono addirittura indumenti di seta fatti apposta per atopici, indumenti di cotone leggeri, indumenti morbidi, detersione corretta, cioè c'è tutta una routine igienico-cosmetica precedente la terapia vera e propria dermatologica che bisogna seguire al meglio, e le terapie ci sono. Un pelino di cortisone una volta ogni tanto non è che sia drammatico, va messo il meno possibile, però si può tenere benissimo a bada la dermatite atopica, che poi tende a migliorare da sola nel corso degli anni. Andiamo a Firenze, c'è Giovanni, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno. Eccoci. Allora, il mio problema è, come dire, storico. Dall'età di 15-16 anni, credo, da quando un ragazzo diventa uomo, ho questo problema. Dopo il rientro delle vacanze, quindi mare, dopo che la pelle comincia a lasciare l'abbronzatura, dopo la doccia, dopo il bagno, io ho un prurito che non posso sopportare. E questo dura da tantissimi anni. Ho provato a rivolgermi a vari specialisti con diverse risposte, ma il problema non si è mai risolto. La cosa che mi preoccupa è che mio fratello ha lo stesso problema, parlandone, diciamo, dopo qualche anno l'ho scoperto, e adesso mio figlio uguale, che ha 16 anni, da quest'anno non è un'opinione, la genetica è quasi un marchio di fabbrica. I maschi della famiglia alla fine dell'estate si grattano. Professor Barbareschi, ci hanno provato in tanti a dare la soluzione a Giovanni, ma hanno fallito. Lei se la sente? Ma senz'altro, diciamo, sono colpito dal fatto che ci sia questa familiarità così evidente, e benissimo, va accettata, è così, questo è la realtà. Devo dire che se sono periodi transitori, cioè al ritorno dalle vacanze, poi per qualche tempo, un mese e mezzo, c'è questa specie di prurito molto intenso che dura una mezz'ora dopo la doccia, purtroppo quello che io ho trovato che riesce a dar sollievo ai pazienti è la terapia antistaminica. Non ci sono creme o altro che riesce a togliere questo fastidio, mentre la terapia antistaminica lo riesce a fare. Detto questo, certo che prendere gli antistaminici per potersi lavare non è proprio buona notizia. Sì, però vediamola in un'altra ottica. Innanzitutto, gli antistaminici sono farmaci che non sono caratterizzati per effetti collaterali importanti. Certo. Ci sono le allergie che, come tutti sappiamo, sono in graduale aumento in questi anni, per cui i soggetti allergici che sono costretti ad assumere antistaminici anche per tutto l'anno. Quindi, siccome il fastidio è piuttosto come intenso, sempre bisogna fare un bilancio, e quindi il suo suggerimento, professor Barbareschi, io devo dare la linea alla viabilità, è antistaminico? Purtroppo sì, purtroppo sì, e non locale, perché localmente funziona poco, per non dire niente, mentre per bocca questi pazienti per quel periodo riescono a stare molto meglio. Per traghettarsi in un periodo in cui questo prurito, questo effetto collaterale, direi, del rientro delle vacanze si presenta. E noi siamo tornati, adesso ci trasferiamo, facciamo un salto a trovare la dottoressa Pucci Romano, vicepresidente Schinecco. Buongiorno dottoressa, è arrivato il nostro momento. Sì. Abbiamo detto che la nostra pelle si prepara ad affrontare anche la nuova stagione con assumendo gli alimenti giusti, un po' come abbiamo fatto prima dell'estate per proteggerla dall'aggressione tra virgolette dei raggi solari. Adesso siamo tornati, vogliamo prolungare i benefici là dove ci sono stati o riequilibrare magari quelle situazioni scompensate magari da un'esposizione non adeguata. Che cosa mettiamo in tavola? Ma innanzitutto noi dobbiamo, come dermatologi, secondo me il consiglio dietetico è fondamentale, appunto come sottolineava Riccarda, anche perché rientra in questo discorso di concetto olistico della medicina, vedere a 360 gradi il problema se c'è e risolverlo anche con gli alimenti. Perché? Perché noi abbiamo subito uno shock ossidativo, anche se piacevolissimo e utilissimo. Io personalmente faccio parte di quella schiera di dermatologi che è a favore dell'esposizione solare più che non. E quindi però che succede? Adesso noi dobbiamo riprenderci da, comunque ci siamo sottoposti a delle radiazioni. E il discorso è, la dieta ci viene incontro perché non a caso ricomincia a vedersi la verdura a foglie verdi che un po' in estate scarseggiava, non vedevamo più, non so, broccoletti, cicoria o comunque sia, se vogliamo prendere sempre i prodotti di stagione. E una cosa importante vorrei sottolineare, so che il tempo è tiranno, uno degli organi, uno dei distretti che soffre tanto per l'esposizione solare sono i capelli, perché subiscono uno shock, un arresto nel rinnovamento e si preparano alla famosa caduta autunnale, non è un caso. Lo sappiamo. Quindi allora, quali sono gli alimenti che fanno bene? Il silicio, il selenio, gli antiossidanti, l'uva e gli alimenti che contengono queste sostanze sono non so, la cipolla, i cereali integrali, i broccoli, i cavolfiori, ma anche le mele e tutte le verdure a foglia verde. Il pesce ovviamente, gli omega 3, gli omega 6 che sono dei risparmiatori d'acqua, perché noi in questa fase dobbiamo tutelare soprattutto l'idratazione della nostra pelle. Quindi foglie verdi, verdura foglia verde, ma lei mi ha detto anche la cipolla l'uva. Che è piena di quercetina, un ottimo antiossidante. Le uova, le uova per esempio io consiglio moltissimo le uova di quaglia perché sono molto più leggere da un punto di vista di grassi, ma sono piene di selenio e sono piene anche di grassi buoni per la nostra pelle, vitamina F. Le uova di quaglia si trovano anche al supermercato, poi sono carine, ormai si mettono nelle insalate, esatto, sono anche molto belle a vedere. La dottoressa Serri deve venire un po' da noi perché insomma le mancano un po' i fondamentali, almeno sulle uova di quaglia. Dottoressa Pucci Romano, la ringrazio, buona giornata anche a voi. Mi è caduta sull'ovetto di quaglia. Io ho Alessandra da Roma, perché poi vorrei aprire l'angolo beauty. Alessandra, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Dunque, io qualche anno fa ho avuto un problema allergico che mi provocava purtroppo un fortissimo prurito sulle braccia. Sì. Adesso purtroppo mi grattavo e tutte le volte che prendo il sole mi rimangono queste macchie scurissime laddove appunto io insistevo di grattarmi. Quindi mi chiedevo se esiste qualche cosa per uniformare la bronzatura in questo caso. Professor Barbareschi, vede che cosa succede? Vedo e sento soprattutto. Sento perché non riesco ancora. Siamo alla radio. Però devo dire che in effetti la signora ha sottolineato il concetto delle pigmentazioni post-infiammatorie, cioè il grattamento sicuramente ha dato un danno da cui è seguita un'infiammazione, a cui è seguita la iperpigmentazione, per cui lei deve fare il processo opposto, quindi cominciare a usare gli schiarenti e se non bastano gli schiarenti pensare ai peeling e via di questo passo. Purtroppo è un lavoro un po' lungo però, perché dia risultato, e non sempre il risultato è in linea con l'aspettativa, perché di solito il paziente si aspetta sempre qualcosina in più di quello che si riesce realmente ad ottenere. Invece bisogna essere un po' cauti, no? Spegnere un po' le aspettative, ma un miglioramento ci sarà. Indubbiamente, ecco, il miglioramento non si discute mai, è che il paziente usa sempre un verbo che io sottolineo sempre, che è risolvere, che in medicina qualche volta dà qualche senso di attrito, insomma, ecco. Il risolvere non è per tutti e non è sempre. Possiamo invece risolvere un po' questa bronzatura, questo effetto spentino che dà la bronzatura dopo che per qualche giorno non ci esponiamo più al sole? Magari ci aiuta a risolverlo, adesso vediamo se questo posso utilizzare questo verbo, Dino Del Corso, con un trucco. Dino! Sì, si può risolvere. Un inganno, insomma. Un inganno. Ecco, non è proprio una risoluzione. È una risoluzione temporanea, fin quanto il trucco sta su. Che cosa ci mettiamo? Allora, il must di questo periodo è praticamente il trucco non trucco, ossia truccare il viso senza che si veda, in modo tale da avere un incarnato perfetto, sì, ancora fresco, come se fossimo appena arrivati dal mare, che può essere sicuramente una scelta vincente sia per gli ultimi weekend da fare in spiaggia, sia per la sera, ma soprattutto per il rientro in ufficio. Assolutamente sono vietati i fondotinta perché sono troppo grassi e in questo periodo ancora col caldo tenderebbero a colare. Sì. Quindi il consiglio è per le pelli secche, quelle che hanno bisogno di un pochino di idratazione, si può optare per delle creme colorate, quindi colorano, risaltano la bronzatura e allo stesso tempo idratano. Mentre per le pelli un pochino più grasse si consigliano le cipre o le polvere illuminanti perché tendono ad asciugare il sebo. Per può ridare un po' di vita alle guance. Sì, bravo, un po' di luce, pizzicotti. Un tempo uno si dava qualche pizzicottino e subito, ecco. Ma adesso invece durante la bronzatura si predilige il fard di un rosa confetto che quindi va in contrasto con la bronzatura stessa e dà luminosità al viso. La si può applicare sia sugli zigomi o un pochino anche sulla fronte. E cosa molto importante durante questo periodo dell'anno è non esagerare troppo con dei colori forti, quindi come le matite nere piuttosto che le liner, perché appesantiscono un po' lo sguardo. Bravissima, invece noi dobbiamo avere uno sguardo lieve verso il futuro, ed essere molto positivi. Sì. Grazie a Dino Del Corso. Grazie a voi. Noi stiamo chiudendo, io vi ricordo che siamo anche su Facebook, per cui datevi da fare. Che indirizzo Facebook? Basta essere benessere e noi appariamo lì, per cui facciamoci amici e soprattutto suggeriamoci commenti, indicazioni, richieste, dubbi. Vuole diventare proprio una pagina in cui andare, trovarsi a casa e trovare delle indicazioni per stare bene. Naturalmente ci saranno anche, come sempre, a trovarci i nostri esperti. Intanto io saluto anche il professor Barbareschi. Professore, grazie dell'invito, è stato molto piacevole. Speriamo di aver dato qualche indicazione utile. Grazie professore. Dottoressa Serri, noi ci vediamo presto. Grazie mille, a presto a tutti. Ciao Nico, ciao Mauro. Grazie allora per averci seguito. Appuntamento a domani dopo il GR delle 11. Vi aspettiamo.